con Luca Ricci, co-direttore artistico di Kilowatt Festival a Sansepolcro dal 16 al 24 luglio 2021. Ben trovato! Ciao, ciao Federico e ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Spieghiamo cos'è la realtà Kilowatt. È un festival multidisciplinare che si tiene ormai da 19 anni a Sansepolcro in provincia di Arezzo e poi anche molto di più perché come ormai quasi tutti i festival sono diventati è anche uno spazio attivo durante tutto l'anno, quindi anche un centro di residenza, quindi un luogo dove gli artisti vengono a studiare, a fare ricerca, a sviluppare le proprie produzioni, è un luogo anche di formazione per attori professionisti e anche non soltanto, insomma, e ci occupiamo quindi di teatro ma anche molto di danza, di circo contemporaneo e di musica. Come si caratterizza questa edizione? Si chiama questa fervida pazienza questa edizione di quest'anno e credo che non servano molte spiegazioni perché insomma la pazienza è qualcosa che abbiamo esperito un po' tutti in questo lungo anno e mezzo in cui abbiamo imparato a non essere padroni fino in fondo del nostro tempo, a non poter programmare tutto quello che credevamo fosse nelle nostre facoltà e possibilità finora. E fervida però vuole fare riferimento anche a tutto quel lavorio spesso sotterraneo, nascosto, con cui tante persone, noi chiaramente ci riferiamo soprattutto agli artisti, ai tecnici, agli organizzatori del mondo dello spettacolo, però non riguarda solo il nostro mondo, ci sono tanti persone che hanno portato avanti le loro ruoli sociali anche quando sembrava impossibile, quando tutto sembrava bloccato. Devo dire che il nostro pensiero è andato soprattutto ai creativi perché tenere viva la fiamma della ricerca dello spettacolo, insomma, mentre tutto intorno a noi il panorama è quello della solitudine, dell'isolamento, della malattia, anche della morte, insomma, non è stato facile, quindi insomma, se un festival arriva adesso a essere possibile è perché tante persone, insomma, non si sono arrese in tutti questi mesi. Quanti saranno gli eventi? Più di 60 con 50 compagnie coinvolte, con una preponderanza di una 25ina di titoli legati al teatro, una 15ina di danza e poi le altre discipline che ho citato prima a seguire. Ogni giorno ci sono più o meno 7-8 cose diverse che si possono vedere. Più o meno come saranno strutturate le giornate? In linea di massima gli spettacoli cominciano dalle 5 in poi e vanno avanti fino a mezzanotte. Prima di essi, molti giorni del festival, non proprio tutti, ma almeno 5 su 9, ci sono dei convegni, degli incontri a cui tutti possono partecipare, sono proprio a ingresso libero e alcuni sono più di settore, intendo dire gli incontri, insomma, più tecnici, altri sono proprio per tutti, insomma. Per esempio ce n'è uno dedicato a Simone Stramelli, che sono i padrini di questa edizione del festival, questa coppia di autori, attori messinesi che hanno fatto, insomma, un pezzo di storia del teatro italiano. E poi sempre per concludere quel disegno delle giornate, tra le 17 e mezzanotte ho detto vari spettacoli, alcuni anche in dei formati particolari con 2, 1, 20 spettatori e basta, insomma altri invece più classici da palcoscenico e poi dopo mezzanotte il dopo festival dove si incontrano gli altri spettatori, gli artisti, tutto il mondo delle persone che seguono il festival, si beve una birra, un bicchiere di vino, insomma si fanno un po' le somme della giornata. In che modo sarà coinvolto Sansepolcro? In tanti modi, nel senso che tu sai bene che uno dei marchi di fabbrica del nostro progetto è quello di avere un gruppo di cittadini attivi che lavorano con noi ormai da 15 anni, non sono sempre gli stessi, però insomma il progetto è nato 15 anni fa, si chiamano Visionari ed è stato probabilmente il primo progetto del genere in Europa in cui un pezzo della programmazione è proprio affidato in completa autonomia un gruppo di cittadini di Sansepolcro. Quest'anno erano 67, quindi tu puoi immaginarti che vuol dire aver lavorato con loro da novembre fino ad aprile per scegliere questi 9 spettacoli che loro hanno selezionato con un gruppo così ampio, però insomma è anche un'operazione di irraggiamento del festival all'interno della città, ma non è solo questo, perché poi c'è un altro progetto con cui un gruppo di altri 26 cittadini di Sansepolcro ha commissionato un'opera d'arte insieme, facendo la scelta dei contenuti da commissionare e dell'artista a cui commissionarli insieme a un altrettanto numeroso gruppo di cittadini viennesi. Questo sta dentro il disegno complessivo di un progetto europeo di cui siamo capofila che si chiama Bispettacchi, progetto che tra l'altro quest'anno arriva a Sansepolcro in pompa magna con almeno 3 produzioni e anche con un convegno che sarà dal 20 al 22 luglio sui temi di come cambia la partecipazione attiva delle persone, quindi insomma sto comunque rispondendo alla tua domanda, dopo la pandemia. Ci dai tutti i riferimenti internet? kilowattfestival.it con la K, la W e 2 T, kilowatt

sia su Facebook che su Instagram Casetta Rossa, SPA, Spazio Pubblico dell'Autogoverno. Abbiamo anche il sito casettarossa.org, dove trovate sia il programma che si svolgerà nel parco, sia appunto quello dello spazio a prova. In questa avventura è il nostro spazio gemello e ci accompagna per tutta la festa con le attività per bambini e bambine. 19esima edizione della Festa dell'Altra Estate a Roma, Casetta Rossa SPA, dal 7 al 25 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Sonia. Un in bocca al lupo e a presto. Ciao Federico, ti aspettiamo. E a tutti e tutti voi, grazie. Con Marilina di Casale Garibaldi per presentare la rassegna Wednesday Break My Heart al Casale Garibaldi Common at Work a Roma dal 30 giugno al 21 luglio 2021. Ben trovata. Ben trovati a voi. Ce ne parli? Una rassegna che abbiamo iniziato il 30 giugno, che è stata molto interessante già nel suo primo appuntamento e che adesso si articolerà fino al 21 luglio, giornata in cui ricorderemo il G8 di Genova del 2001, con uno spettacolo ad hoc, delle letture, delle videoproiezioni, quindi sarà molto interessante. I prossimi due appuntamenti che avremo saranno proprio questa settimana. Mercoledì 7 luglio avremo un evento che è il Canto dei Vivi, uno spettacolo di fine anno dei corsi di teatro e scrittura creativa, che saranno 7 monologhi scritti e interpretati dagli allievi dei corsi e sono liberamente ispirati a Spurriver di Master. Dopodiché alle 21 faremo la cena, la proiezione delle semifinali degli europei di calcio e a seguire selezioni musicali. Altro evento che però per noi è ancora più importante proprio a livello politico, a livello di messaggio che vuole comunicare, sarà il giovedì 8 luglio dalle ore 18.30. Avremo la presentazione di Quando il fumo si dirada di Federico Raponi, appunto, e l'aperitivo. E a seguire proietteremo il documentario Il tipo che sorride di Giancarlo Castelli, con poi delle selezioni musicali anche lì per poter rimanere insieme. Ci sono anche delle ospiti, sì, ci saranno Maurizia Russo Spena e Francesca Romana Di Santo per parlare con la seconda soprattutto della vicenda legata, visto che è il decennale, 10 anni dall'occupazione del Teatro Valle. Lei ha vissuto l'esperienza del Teatro Valle, nel libro c'è un capitolo intero dedicato all'esperienza del Valle occupato, quindi ci sembrava opportuno. Sì, noi abbiamo scritto proprio nella pubblicizzazione di questo evento, sono momenti di una vita tra politica, arte e cultura partigiana, più di 30 anni tutti d'un fiato, dalla Pantera ai centri sociali, dal Chiapas al Kurdistan, dal processo Priebke al Teatro Valle Occupato, soprattutto Radio Onda Rossa e la passione per cinema e teatro. Quindi subito dopo avremo la presentazione e la proiezione del documentario Il tipo che sorride, appunto di Giancarlo Castelli, e a seguire selezioni musicali. E poi proseguiremo la rassegna con mercoledì 14 luglio, in cui avremo uno spettacolo di fine anno, lo stesso di questo mercoledì per chi non potesse venirlo a vedere il 7 luglio. E mercoledì 21 luglio siete tutti invitati per quanto riguarda l'evento Genova per noi, Genova non è finita, e ci saranno appunto queste letture, questo spettacolo ricordo del G8 in collaborazione con Cinema Press. Come era nata l'esigenza di questa serie di appuntamenti? Purtroppo abbiamo vissuto un periodo che non è stato dei migliori a livello sociale, culturale, eccetera. Quello che noi come associazione culturale, ma anche come spazio chiaramente autogestito, eccetera, volevamo fare era mettere a disposizione degli eventi, delle situazioni dove potersi rincontrare, dove poter rifare cultura in un modo libero, aperto e condiviso, sfruttando poi il fatto che abbiamo un giardino molto grande che quindi può ospitare tante persone all'aria aperta senza alcun pericolo. Quindi è nata assolutamente l'esigenza di dover riprendere un po' di attività politiche, culturali, ricreative, associative, perché crediamo molto nel fatto che bisogna fare rete per continuare a stare al mondo con un significato. Per chi non lo conoscesse, ci racconti anche un po' l'esperienza del Casale Garibaldi. Il Casale in realtà è un luogo autogestito ormai da 30 anni, purtroppo era stato lasciato all'incuria un po' dal comune, è un luogo molto bello, quindi sarebbe stato un peccato perderne il possesso da parte della cittadinanza, e quindi grazie all'iniziativa di un gruppo di persone è stato proprio aperto al pubblico, è stato luogo e centro culturale, eccetera. Purtroppo dal 2017 era scaduta la convenzione col comune per l'usufrutto degli spazi, e da allora praticamente il Casale risulta occupato perché non c'è stato mai un modo per poterne recuperare le fila, quindi poter riavere un qualche diritto. Nonostante tutto, comunque un collettivo di persone di cui appunto faccio parte ha ripreso in mano questa esperienza e non ha voluto assolutamente buttarla al vento, quindi continuiamo a avere uno spazio che è prima di tutto della cittadinanza, cioè uno spazio comunque pubblico in cui facciamo tante attività per la collettività, in cui sono stati aperti spazi, sportelli d'ascolto per migranti, durante la pandemia è stato un centro di interscambio anche della spesa sospesa, già da un po' di tempo c'è uno sportello delle CLAP, di camere del lavoro autonomo e precario, quindi chiunque abbia bisogno anche di un sostegno a livello di sindacato e di battaglia proprio politica per problemi lavorativi, c'è sempre uno sportello di ascolto pronto ad accoglierlo e a poter dare una mano a risolvere situazioni spinose. È uno spazio, diciamo, a servizio della collettività con varie attività culturali e non, per far sì che appunto non venga abbandonato, ma si possa fare cittadinanza attiva sul territorio. Poi noi siamo in un territorio che è abbastanza particolare, che è quello di Centocelle, quindi molto variegato, dove spesso ci sono situazioni sociali più o meno disagiate, quindi quello che ci fa piacere è poter cercare di fare volontariato nei confronti di tutti coloro che hanno bisogno. Ci lasci tutti i riferimenti web? Noi abbiamo una pagina che si chiama Casale Garibaldi Common Work su Facebook, dove pubblichiamo i nostri eventi, post, eccetera. Ci troviamo in via Romolo Balzani 87, a circa 8 minuti a piedi dalla metro C Gardenia. Potete contattarci tranquillamente attraverso la pagina del Casale, perché troverete sempre qualcuno che risponde, quindi non ci saranno problemi da questo punto di vista. La nostra rassegna di eventi ha proprio un evento che si chiama come la rassegna, che è appunto Wednesday Break My Heart. Trovate sempre la pagina aggiornata, quindi ogni qualvolta andiamo a fare qualcosa, chiunque seguirà la pagina verrà aggiornato degli eventi. Gli eventi sono al 90% di ingresso gratuito o comunque con una sottoscrizione libera. Speriamo che ci siano tante persone che vogliano unirsi alla nostra realtà proprio partecipando attivamente e mettendosi in gioco. La rassegna Wednesday Break My Heart al Casale Garibaldi Common at Work a Roma dal 30 giugno al 21 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Marilina del Casale Garibaldi. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, a presto allora. Con Giambattista Tofoni, direttore esecutivo della quinta edizione di Risorgi Marche, dal 16 luglio al 31 agosto 2021. Ben trovato. Grazie a te e a voi per l'invito, ben trovati anche a voi, grazie. Raccontiamola per chi non la conoscesse. Sì, Risorgi Marche insomma è nata nel 2017 a seguito purtroppo del terremoto che ha devastato le Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo nel 2016. È stata un'idea di Neri Marco Re e insieme abbiamo creato questo festival sui prati montani per cercare di riattivare un po' l'economia locale, di ripartire e soprattutto di non far dimenticare questo terribile terremoto del 2016 che purtroppo ha devastato il 67%, insomma è stato veramente concentrato nella nostra regione, cioè le Marche.

su Facebook è sempre Risorgimarche, e poi abbiamo il sito che è risorgimarche.it, dove chiaramente noi non stampiamo niente. Il festival è così ecosostenibile che da 5 anni non stampiamo né un depriant né un manifesto, e il festival è anche plastic free, abbiamo ricevuto anche diversi premi in questi anni sotto questo punto di vista, come sappiamo è un tema importantissimo in questa fase. Risorgimarche.it e poi insomma Facebook e Instagram, dove abbiamo 70-80 mila follower che ci seguono, e insomma tutto avviene nei social, tutto avviene in maniera digitale, diciamo. Poi c'è il contatto, chiaramente un po' distanziato, fisico durante i concerti, quindi senza carta ma col digitale per le informazioni, ma dal vivo per quanto riguarda la musica e l'incontro con le comunità. Quinta edizione di Risorgimarche dal 16 luglio al 31 agosto 2021. Saluto e un ringraziamento al direttore esecutivo Giambattista Tofoni. Un in bocca al lupo e a presto! Creti, mi dispiace per il lupo, non morirà, e lui scatterà da una parte e non da un'altra, e sarà una bellissima edizione. Grazie molto a tutti quanti. Grazie. Con supporto legale per presentare l'antologia di fumetti Nessun Rimorso. Ben trovato. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Buongiorno anche da supporto legale. Cos'è? Nessun Rimorso è in parte la riedizione del fumetto Benefit che facemmo nel 2007, che si chiamava Genova versus G8. All'interno del volume ovviamente troverete anche le 100 pagine che compose il fumetto ormai quasi 15 anni fa, e poi c'è tutta una parte grossa di nuove tavole regalate da autori e autrici che hanno voluto partecipare a questo progetto, e all'interno troverete ovviamente anche delle parti scritte da noi, soprattutto i 3 riassunti dei principali processi di F. Bolzaneto, e poi quello che ci sta più a cuore ai e alle manifestanti, oltre a un riassuntone nella vicenda del processo al Sud Ribelle. Nel ventennale delle manifestazioni contro il G8 a Genova del luglio 2001, dopo quelle 3 giornate, nel periodo successivo, prese vita l'esperienza di supporto legale. Ecco, ce ne parli un po'? Noi nasciamo nel 2004 da una costola di Indimedia, nasciamo perché la segreteria legale venne a un meeting di Indimedia nel 2004 chiedendo una mano pratica per sbaltire tutta la mole di lavoro che c'era, anche semplicemente digitalizzare le udienze, guardarsi ore e ore di video, foto, tutto per poter montare la difesa per quanto riguarda il processo ai manifestanti, e ovviamente per riuscire a montare un quadro anche per quanto riguarda DS Bolzaneto. Poi nel 2005 ci stacchiamo da Indimedia, creando comunque un gruppo autonomo composto da alcune compagne e compagni sparsi per l'Italia, e noi dopo quella fase d'aula, chiamiamola così, di supporto vero e proprio fisico agli avvocati, ci siamo poi occupati della campagna di informazione intorno ai processi, soprattutto quello alle manifestanti, oltre al supporto per quanto riguarda le 10 persone condannate. Nel 2012 partecipammo alla campagna che lanciò la radio a ridosso della sentenza di Cassazione, che si chiamava 10%. Siamo stati questo e anche molto altro, però la sintesi possiamo dirla, riassumerla così. La radio chiaramente è Radio Onda Rossa. Certo. Qual è la situazione processuale al momento? Nel 2012 si è chiusa la sentenza definitiva per quanto riguarda le 10 persone, 10 compagni e compagne, attualmente 3 in maniera diversa stanno ancora scontando la pena. Vincenzo Vecchi si trova in Francia, è stata richiesta l'estradizione da parte del governo italiano 2 anni fa, tanto che fu prima riarrestato in Francia e poi scarcerato. Per quanto riguarda la posizione di Vincenzo, l'Italia sta facendo di tutto per riportarlo in Italia, dove lo attende una pena di oltre 13 anni. Abbiamo Luca Finotti, di cui abbiamo parlato anche recentemente a Radio Onda Rossa, perché è stato ritradotto in carcere, gli è stato tolto il permesso per cui gli garantiva di stare in una comunità, e poi abbiamo Jimmy, che già da un po' di tempo non è in carcere, sta ancora scontando la pena, ma è fuori, dorme fuori grazie ai lavorativi. Come nasce l'idea di questa antologia? Nel 2007 nell'iniziativa soprattutto di un altro, di un fumettista, Alessio Spadaro, che essendo una delle persone che negli anni si è spesa per supporto legale partecipando all'iniziativa, nel 2007 ci propose questa idea che noi accogliemmo ovviamente e facemmo nostra, e fu creato questo volume. Per questo ventennale abbiamo deciso di uscire col fumetto, lo speciale di Zapruder, con un documentario che sarà proiettato il 20 luglio a Genova, perché volevamo fissare dei punti per fare in modo che fossimo noi, compagni e compagne. Non vogliamo raccontare le gioie di Genova, avevamo bisogno e desiderio di raccontare quello che è successo dal 22 luglio in poi, perché di questo ci siamo occupati come supporto legale. Prima non esistevamo, volevamo fissare dei punti, soprattutto sottrarre, o almeno cercare di sottrarre il ventennale da quella che è la retorica vittimistica che c'è stata negli ultimi 20 anni. La scelta di questo titolo? Ma perché è stato uno dei nostri slogan da sempre. Il supporto legale nasce anche per la difesa di tutte e tutti i manifestanti, indistintamente, per superare e per opporsi alla dicotomia, e dal 20 luglio in poi soprattutto, che era quella tra buoni e cattivi, di dividere il movimento tra pratiche giuste e pratiche non giuste. Credo che soprattutto ora, a distanza di anni, anche a distanza di tutto quello che è successo prima, durante e dopo, non capisco perché dobbiamo avere qualsiasi tipo di pentimento. Quello che è successo a Genova abbiamo visto tutte e tutti: c'era un movimento composto da anime diverse che avevano pratiche di piazza anche diverse, a cui lo Stato ha scelto di spezzare le gambe, perché comunque anche questa complessità, una complessità fatta anche di anime che non per forza erano d'accordo, no? Nelle piazze genovesi, forse probabilmente ha fatto paura dopo anni di un movimento altermondialista in crescita. Come è strutturato il volume? I primi 2/3 sono delle tavole nuove, dedicato alle tavole nuove, e in mezzo ci sono appunto i nostri scritti. Un volume abbastanza classico, però crediamo che sia venuto anche molto bene. Non ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? supportolegale.org è il nostro sito, e lì poi potrete accedere informandovi anche sulla campagna che stiamo portando avanti, che è quella sia del benefit per quanto riguarda tutto il volume di roba che abbiamo prodotto, anche perché tutto ciò che noi produciamo ovviamente è benefit per supporto legale. Abbiamo ancora 3 persone, 3 compagni che hanno a che fare con il G8 di Genova 2001, mi sembra abbastanza evidente, l'abbiamo riassunto poco fa, quindi supporto legale cesserà il giorno dopo che tutti loro hanno finito di regolare i conti con lo Stato. L'antologia di fumetti Nessun rimorso, un saluto e un ringraziamento a supporto legale. Un in bocca al lupo e a presto. A presto, ciao, grazie. Ed eccoci, la settimana teatrale romana, Simone Nebbia di Teatro e Critica, ben trovato. Eccoci qua, bentrovati tutti voi. Insomma, intanto direi che continua Futuro Festival al Teatro Brancaccio, la stagione estiva del Teatro Brancaccio, dal 16 al 17 luglio, quindi 2 giorni fondamentalmente, venerdì e sabato, con Crolli in prima nazionale. La regia e coreografia, perché si tratta di un lavoro di danza, è quella di Alessia Gatta, il testo è di Marco Ubertini, ovvero sia Ube, interpretato da Giacomo Ferrara. È un lavoro per 12 danzatori, in un tempo sospeso un viaggiatore abita un territorio dalle anonime origini, un rifugio immaginario che diviene luogo per la sopravvivenza. Molto interessante in realtà questo processo come flusso di coscienza, che però appunto prende la danza, prende il corpo, interrogandosi appunto sulla natura del sentire, ci si rivolge a una interlocutrice indefinita. Una riflessione che viene suggerita dall'omonimo libro di Marco Belpoliti, I crolli appunto, un'indagine che parte da un'interpretazione anche metaforica, insomma, degli avvenimenti storici che stanno a cavallo tra i 2 secoli, come appunto le Torri Gemelle o ancora prima la caduta del Muro di Berlino, e cerca di raccontare così la storia di un'identità, quindi da un'esperienza collettiva, l'esperienza collettiva e l'esperienza personale riescono così ad entrare in dialogo. Molto interessante questo progetto di danza, 16-17 luglio, Teatro Brancaccio, per ciò che riguarda il Futuro Festival. Andiamo anche al Teatro di Roma, 16-18 luglio invece, al Teatro India, perché Michele Di Stefano, ovvero sia MK, presenta Pezzi anatomici, questo progetto performativo, appunto nelle sale del Teatro India, nella sala Oceano Indiano, sul palco del Canneto. Questo Pezzi anatomici, appunto, è una coreografia di Michele Di Stefano con un cast variabile, con Filippo Arbù, Giorgio Caravano, Marta Ciappina, insomma con molti danzatori, ma insomma, tra di loro anche i danzatori storici dell'ensemble romano. È un progetto che nasce appunto nell'ambito del progetto produttivo Oceano Indiano, che indaga dei formati differenti, da sala prove a un andamento sperimentale, poi c'è il concerto, lo spettacolo o più spettacoli. La scena è proprio un luogo di incontro tra le varie attività spettacolare e coreografica, che si apre a questo approfondimento di concetto per offrire poi al pubblico un ritmo incalzante, strutturato, no? Che viene mimetizzato in questo flusso prodotto da MK. Molto curiosa questa performance, fruibile per tutto l'arco temporale, in una durata di 3 ore complessive. Appunto, abbiamo degli orari che vado a segnalare: alle ore 18 e alle ore 20 alla Sala Oceano Indiano, e alle 20:21 sul palco del Canneto, nei giorni 16, 17, 18 luglio. Gli ingressi e l'uscita sono liberi durante questa fascia oraria, quindi insomma è un progetto particolare. Per quanto riguarda invece un po' fuori Roma, siamo a Velletri, domenica 18 luglio ci sarà un nuovo appuntamento di Paesaggi del Corpo, il Festival Internazionale di Danza Contemporanea, praticamente quasi tutta danza questa settimana. Alle ore 17 del 18 luglio, appunto a Velletri, si esibiranno in Piazza Cairoli Mega Class Ballet Petranura Danza con Agua, e poi con Le Filles Rouges Mandala Dance Company. Si tratta di due lavori molto particolari. L'uno, Agua, nasce dalla riflessione sul concetto di resilienza e l'adozione di un movimento coreografico fluido, come appunto l'acqua penetra le forme e si adatta, investe lo spazio in modo molto preciso, mentre invece Le Filles Rouges è una produzione site specific che si ispira a tutta l'interpretazione dei leitmotiv che appartengono alla vita, no? Una sorta di filo invisibile, lungo, indistruttibile, che lega noi alla nostra anima gemella, alla quale siamo destinati prima o poi ad unirci. Questi due progetti di Paesaggi del Corpo a Velletri, domenica 18 luglio. Poi andiamo a vedere anche cosa ci offre questa settimana il programma di Radure, uno degli spettacoli lungo la via Francigena del Sud. Questa settimana andremo precisamente a Cori, sabato 17 luglio, al Tempio di Ercole, per vedere Il Vecchio e il Mare di Ernest Hemingway con la interpretazione di Sebastiano Somma. Per quanto riguarda invece domenica 18 luglio alle ore 19, sempre a Cori, al Chiostro di Sant'Oliva, Matuta Teatro con Eneide e Sound Film, progetto di Titta Ceccano e Francesco Altilio, la regia di Giulia Borretti. L'ingresso per questo spettacolo è addirittura gratuito, quindi insomma potremmo andare a vederlo gratuitamente alle 19 di domenica 18 luglio a Cori. Poi ancora un evento piuttosto particolare, perché ad Albano Laziale c'è Albano Raccontando, un festival di teatro diretto da Maria Assunta Salvatore, che sarà in scena, in realtà è già in scena da ieri, fino al 14 di luglio, quindi l'occasione per vedere questa sera Armando, Lettere resistenti, in anteprima la regia di Enrico Messina con Enrico Vezzelli, quindi anche interessante dal nostro punto di vista, Federico direi, mentre invece mercoledì 14 Ubure Ubuki, Daniele Bonaiuti, Simone Martini, Alessio Martinoli Ponzoni con la regia di Simone Martini porteranno questa versione di Ubure molto particolare in questo festival di teatro di narrazione che si svolge appunto ad Albano in piazza Santa Maria della Rotonda, con ingresso gratuito anche in questo caso. Gli spettacoli sono la sera alle 21. Per quanto riguarda ancora la regione, in qualche modo possiamo andare a vedere anche il calendario che ci offre la stagione estiva della TCL, del circuito regionale. A Frosinone il 15 di luglio, giovedì, la regia di Raffaele La Tagliata con Fino alle Stelle, scalata in musica lungo lo stivale, mentre invece a Caprarola lo stesso giorno 100.000 uno nessuno, la curiosa storia di Luigi Pirandello con la regia di Giuseppe Argirò. Contemporaneamente la scoperta dell'America sarà a Viterbo, la scoperta dell'America di Pascarella a Viterbo. 16-18 luglio per Guccio, uno spettacolo con le canzoni di Francesco Guccini, con Valentina Bruscoli e Giuseppe Gandini, mentre invece 17, vediamo forse qualcosa, ecco, forse da ricordare questo, giusto questo, Carpineto Romano, 17 luglio, Bolle di Sapone, con la regia di Lorenzo Collalte, Daniele Poloni e Grazia Capraro, danno in scena per questo spettacolo che abbiamo visto più volte a Roma. Tra le altre cose, forse sì, andrei a segnalare giusto questo lavoro, Vecchia sarei tu, a Bagliano in Sabina, 17 luglio, e con Antonella Questa. Al di là di alcune cosette che ci saranno più avanti, c'è il ritorno d'Antonio Rezza a Latina, per il resto non mi sembra una enorme offerta. I progetti della settimana non si chiudono qui, perché voglio andare a segnalare come continua la rassegna invece fuori programma, sarà appunto nei spazi del Teatro India per questa settimana, e andremo ancora questa sera a vedere Flow di Marco Cantalupo e Katarina Gdaniec e Linga, spettacolo di danza alle ore 19.45. Appunto sarà questa sera, è della compagnia Linga, che si ispira alla performance creata dei movimenti di gruppo degli animali come branchi di pesci, gli stormi, gli uccelli e gli sciami di insetti. Quindi viene fuori una danza molto fluida, molto flessibile, capace di modificare la velocità e la direzione a seconda dello spazio che si ha a disposizione. Molto interessante il progetto di danza. Ancora danza con il 15 luglio Exceptions oppure Tom Weinberger nell'arena del Teatro India, sempre alle 19.45, è in prima nazionale. Weinberger è un coreografo israeliano che andremo a vedere con questo lavoro, che ha di per sé una narrazione di fondo, questa narrazione fatta da questi due corpi, di proprio quello del coreografo, che si cercano e si raccontano attraverso il movimento. Sempre il 15 luglio, ma in seconda serata, seguire alle 20.15 andremo a vedere quest'altro lavoro, Everything That's Left, di Sita Ostheimer con la sua compagnia. Sita Ostheimer è una coreografa tedesca e ci dice: questo è per te che stai cercando un nuovo inizio, per te che non senti niente e senti troppo allo stesso tempo, per te il cui corpo riconosco da lontano e che mi è estraneo quando sono vicino. Questo è piuttosto interessante, questo progetto sulla lontananza e sulla la relazione. Progetto di Sita Ostheimer, e lo andremo a vedere nel palco del Teatro India alle ore 20.15 nell'arena omonima in prima assoluta per il festival Fuori Programma. E questo è tutto. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.